Beh, le foto, lei ha fatto delle foto anche... Ho fatto una serie di ritratti, fra l'altro tante, di centinaia. Centinaia di ritratti, centinaia. Sì, centinaia. Quanti esattamente? Qualche centinaio. Cioè, diciamolo. Di questi ritratti sì. Ho fatto un calendario. Sì. E questo calendario sta avendo un grandissimo successo. E cosa c'è in questi ritratti? Il triangolo pubblico. Il triangolo pubblico? Sì, come triangolo? Il triangolo pubblico, sai che cos'è, Parenzo? Il triangolo pubblico? Il triangolo pubblico, no. Il triangolo pubblico. Pubblico. Pubblico, Parenzo, sai cos'è? Cioè, deriva da pube, la mamma Parenzo, me l'ha insegnato, cos'è il pubblico, il triangolo pubblico? Sai, il pube immagino sia. Triangolo pubblico è il pube. Il triangolo del pube, cioè il triangolo, si dice così. Sì. Ma è una sporconeria allora, scusa. No, perché è una sporconeria? No, non lo so, non capisco, il triangolo pubblico. Allora, sono 12 fotografie di Oliviero sì, Toscani. Di Oliviero Toscani. Triangoli pubblici. Ecco, ma come ha fatto? Biondi, neri. Ma ci interessa, cioè, a fotografare un triangolo pubblico. Chiaro, rosso, ci sono anche un paio di rossine. Ah, un paio su 12 la scelta, eh? Ma una è rosso scuro, una è rosso tipo scozzese, insomma. Rosso tipo scozzese, che vuol no, dire? Queste scusa. Sono foto che io faccio da tempo, perché su questo genere di immagine sì. Non c'è diritto alla privacy, no? Cioè non è che uno dice hai pubblicato la mia fotografia, beh, insomma, voglio vedere chi dice quella era la mia. No, beh, scusi Toscani, se uno riconosce il triangolo pubblico è possibile, neanche i mariti fidanzati lo riconoscono. Ah, lei dice lo può riconoscere solamente un fotografo. Lei dice che sono ignare queste persone? Beh, è una cosa pazzesca. Ma è logico, ma cos'è che nessuno sa? Cruciani, lei sa com'è il suo triangolo? No, lei non no io non ce l'ho il triangolo pubblico. Abbia pazienza. Beh, sì, più o meno. No. Lo riconoscerebbe in mezzo a 2000? Non lo so, forse sì, dipende. Che magari uno ha un segno particolare. Sì, magari uno ha un segno. Magari uno ha un segno particolare. Non cambia tanto, sono tutti uguali. Come triangoli pubblici, cambia solamente il colore. Del pelo. Scusi, però la curiosità è questa. Lei ha fatto queste foto con le persone consenzienti, immagino, all'epoca, quando le ha fatte. Non è che le ha rubate. Non è che le ha rubate. Detto, vengono da me e dico, vorrei un ritratto, Toscani. Bene, ci spogli. E io faccio il ritratto. Ma sempre così. No, ho capito. Però lei ha il ritratto, diciamo, ha fatto... Dunque, di quella persona non è che fotografava solamente il triangolo pubblico, la fotografava tutta. Ma forse... No. Il triangolo pubblico. Cioè, lei... E la selezione, come venivano le persone da lei a farsi fotografare solo il triangolo pubblico? Mi spieghi? Luciani, dice. Ha fatto un annuncio? Che ha fatto? Toscani, un annuncio? Vorrei che lei mi facesse un ritratto. Va bene, signora, si spogli e io faccio il suo ritratto. Come si sbaglia? Non è che il ritratto solamente la faccia, no? No, certo, certo. Ognuno fotografa quello che gli interessa. Ma c'è stato un annuncio? C'è stato una... No, nell'arco degli anni. Nell'arco tra degli l'altro anni. Questi triangoli pubblici sì. Non invecchiano mai, sono sempre giovani, belli. Beh, che vuol dire, scusi, non invecchiano mai? No, come la fotografia rimane... Ah, beh, certo, la fotografia, beh, sì, la no, fotografia... Purtroppo in realtà non è così. Appunto. E non hanno bisogno però sarebbe bello, Toscani, scusami, di tornare... Un attimo, Parenzo. Di tutti quelli con fiori, di siliconate, le donne fanno tutto questo sulla faccia. Sì. Non sul triangolo pubblico. Per fortuna lì invece l'espressività rimane sempre uguale.